Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione infatti tende a mettere gli altri animali in pole position in ogni tipo di dibattito. Quindi facciamo attenzione alla presenza degli altri animali nelle notizie di attualità, di cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Restate all'ascolto per capire meglio che cosa intendiamo dire. Questa è la puntata numero 664, nella quale parleremo del cavallo Ryder schiavizzato nelle strade di Manhattan, dei 9 leoni del giardino zoologico di Odessa, in Ucraina, che oltre al tormento dello zoo hanno dovuto anche conoscere quello della guerra, del ritorno del gatto selvatico sui nostri Appennini, di gatti e cani obesi e del primo divieto di pesca di granchi dell'Artico per rischio estinzione. Non mancherà tanta ottima musica curata stavolta dal nostro Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Ryder, cavallo simbolo della tortura delle carrozzelle. È morto il cavallo di Central Park, che era diventato simbolo del trattamento disumano che viene riservato alla sua specie. Ryder è morto in una fattoria dello stato di New York dopo essere crollato la scorsa estate in strada per la stanchezza per il caldo torrido. È dall'Ottocento che le corse in carrozzella vengono proposte ai turisti di Manhattan, attirando forti critiche da parte degli osservatori più accorti. Nell'agosto scorso Ryder era crollato a terra al termine di un turno di quasi 8 ore e questo episodio era stato ripreso da un passante col telefonino. Coloro che conoscono questi animali, se non hanno preconcetti e stereotipi, sanno che costringere un cavallo a muoversi nel traffico è una vera e propria forma di tortura. A un approfondimento poi era anche emerso che Ryder non era, come era stato inizialmente dichiarato dal suo proprietario, un giovane cavallo di 13 anni, bensì un anziano cavallo di ben 26 anni. Il proprietario è stato messo sotto inchiesta dalla polizia per aver falsificato i documenti. Dopo il malore, Ryder era stato trasferito in una fattoria dove un veterinario gli ha fatto degli esami, sospettando un linfoma. Dopo un attacco epilettico, l'animale è stato eutanasizzato. In vita Ryder era stato al centro dell'attenzione di quegli attivisti che cercavano di superare l'arcaica usanza del giro in carrozzella. Ne restano una settantina di cavalli a New York. Dormono nelle stalle a Hell's Kitchen nel cuore di Manhattan. Nel 2016 l'allora sindaco Bill de Blasio era quasi arrivato allo sfratto. L'iniziativa poi non era andata in porto perché a proteggere questo pittoresco retaggio dell'età vittoriana si erano schierati i sindacalisti del Teamsters, il potente sindacato dei trasporti a cui fanno capo i proprietari delle carrozzelle. La morte di Ryder è un tragico promemoria. Le carrozze a cavalli non sono più accettabili nelle strade di New York e si parla adesso di sostituirle con veicoli elettrici. Però l'associazione dei vetturini tiene duro. Secondo Christina Hansen, la loro portavoce, i cavalli sono più al sicuro a New York che in nessun altro luogo al mondo. Ma sono animali e possono farsi male, possono ammalarsi e possono morire. Quindi, secondo i vetturini e la loro associazione, possiamo andare avanti così all'infinito. E la terribile storia di Ryder non gli ha insegnato niente. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Per la seconda notizia parliamo di Jurassic Park. Ebbene, perché questo titolo? Perché la CIA, agenzia di intelligence statunitense, vuol far resuscitare dall'estinzione i mammut lanosi e le tigri della Tasmania, usando le ultime tecnologie di editing del DNA. Secondo i media statunitensi, tramite la società controllata InQtel, la CIA sta finanziando la Colossal Biosciences, un'azienda con sede in Texas impegnata nella ricerca e nella resurrezione di animali estinti. L'obiettivo apparente è vedere ancora una volta il mammut lanoso. Ma ci sarebbe interesse anche nel resuscitare la tigre della Tasmania, un marsupiale simile a un lupo che si estinse negli anni 30, così come il celebre uccello dodo. Stando a un post sul blog di InQtel, però, si scopre che il reale obiettivo della CIA non è tanto il mammut, quanto quella tecnologia di ingegneria genetica che l'azienda intende sviluppare. Strategicamente interessa quindi affinare le capacità scientifiche per riuscire in questo progetto, che aiuterà il governo degli Stati Uniti a stabilire standard etici, oltre che tecnologici, per l'ingegneria genetica e mantenere gli Stati Uniti un passo avanti rispetto alle nazioni concorrenti che potrebbero essere interessate a leggere, scrivere e modificare il codice genetico. Resuscitare specie estinte è una questione molto discutibile, non solo da un punto di vista etico e politico, ma anche perché, nel concreto, gli habitat non sono più quelli che erano e c'è il surriscaldamento in corso. Se anche l'esperimento riuscisse, che tipo di vita intendiamo regalare a queste creature? Non si fa altro che sentir dire che mancano risorse per gestire al meglio le specie esistenti e si investono enormi quantità di denaro per resuscitare specie ormai estinte. Un dibattito serio su questo tema sembra del tutto assente. I know sometimes I can be wrong. I know sometimes I do believe. Sometimes I can be wrong. I'll be wrong until you're next to me. I'll be wrong until you're next to me. I know sometimes the world is wrong. I know. Sometimes I Il Dipartimento della Pesca e della Selvaggina dell'Alaska ha annullato per la prima volta nella storia dello Stato statunitense la pesca del granchio tipico di queste zone, lo snow crab, la granceola artica, considerata come uno dei granchi più prelibati al mondo. Il motivo è la drastica riduzione numerica di questi animali. Lo riporta il New York Times. La polpa di questo granchio e le sue chele vengono vendute in enormi quantità al mondo della ristorazione. Ma i biologi hanno avvertito che in soli 3 anni, cioè dal 2018 al 2021, è sparito circa il 90% di questi crostacei. Tra le cause c'è il riscaldamento delle acque del mare di Bering e più in generale occorre dire che l'Alaska è lo stato statunitense che sta subendo più di tutti le conseguenze del cambiamento climatico. Non vorremmo che fosse il cambiamento climatico a fermare la pesca. Vorremmo che fosse un ripensamento etico e politico. Ma per il momento la società umana sembra andare in un'altra direzione. Terza notizia, parliamo di leoni che erano stati salvati dallo zoo di Odessa dopo l'inizio della guerra in Ucraina e che sono finalmente arrivati nella loro nuova casa in Colorado, il Wild Animal Sanctuary. Lo riporta la CNN. Gli animali, 7 adulti e 2 cuccioli, erano stati portati via in tutta fretta dal Biopark Zoo della città ucraina di Odessa e hanno compiuto un lunghissimo viaggio passando per la Moldavia e la Romania, dove il 24 maggio sono stati accolti dallo zoo Târgu Mureș in Transilvania. Qui sono rimasti fino al 29 settembre, quando sono partiti per gli Stati Uniti. Da adesso verranno ospitati dal santuario di Kingsburg, un'area vastissima gestita da una ONG che non è aperta al pubblico. Le operazioni internazionali di salvataggio di animali sono complicatissime, ha commentato Pat Craig, direttore del Wild Animal Sanctuary. Siamo felici di essere riusciti a salvarli. Questo è ciò che conta. Vivranno per il resto della loro vita in habitat naturali e incontaminati. Non possiamo neanche immaginare che cosa debba essere stato per questi leoni viaggiare da Odessa fino al Colorado. È ironico ammetterlo, ma l'unica consolazione consiste nel fatto che ci sia voluta una guerra affinché questi animali fossero sottratti all'umiliazione dell'esposizione al pubblico. Siamo a favore del superamento di zoo, giardini zoologici, bioparchi, acquari e parchi acquatici. Durante la fase di riconversione, oltre alla sterilizzazione, pensiamo che una soluzione consista proprio in strutture più grandi, non aperte al pubblico, dove gli ultimi animali costretti in cattività possano, quantomeno, trascorrere il resto della loro misera vita sottratti alla mercificazione del pubblico pagante. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Se i leoni di Odessa passeranno il resto della loro esistenza in un santuario nel Colorado, il gatto selvatico se la sta ancora spassando libero nei nostri Appennini in una dimensione totalmente selvatica. È stato infatti recentemente avvistato un gatto selvatico sull'Appennino modenese e secondo l'associazione Wild Apennines in Italia non ci sono più di 800 esemplari di questo animale. Nei boschi modenesi del Parco dell'Emilia Centrale, quindi, c'è un nuovo prestigioso inquilino. Si tratta di un rarissimo esemplare di gatto selvatico europeo, Felis silvestris, un felino che le fototrappole dell'associazione Wild Apennines, piazzate nel territorio montano di Fiumalbo, hanno immortalato nei giorni scorsi. L'animale è stato ripreso di notte nello stesso punto in cui un lupo era passato durante il giorno. Che sia proprio un gatto selvatico, cugino del gatto domestico Felis catus, è stato confermato anche dagli esperti del Museo di Storia Naturale della Maremma, curatori di un progetto specifico su questa specie, interpellati dall'ente Parchi Emilia Centrale. Si tratta quindi di un rintracciamento straordinario, in quanto, come conferma Filippo Biondi di Wild Apennines, l'areale del gatto selvatico è collocato più a sud del nostro crinale appenninico. Si tratta di un animale molto raro e di interesse conservazionistico. Infatti si presume che in Italia non ce ne siano più di 700-800 esemplari in tutto. Questo animale, solitario ed elusivo, che vive nei boschi e che ha sfiorato l'estinzione a causa della caccia che aveva come obiettivo la sua morbida pelliccia, è riapparso negli ultimi anni nelle fototrappole di quei ricercatori che stavano monitorando i lupi. E nel 2020 l'organizzazione svizzera Pro Natura lo ha eletto animale dell'anno. E noi, che amiamo tutti gli animali, ma che per i gatti abbiamo un debole particolare, auguriamo al gatto selvatico di farcela, a insediarsi di nuovo sugli Appennini italiani, senza cedere alle lusinghe umane, senza cedere alla domesticazione, resistendo nella sua atavica dimensione selvatica. Da quanto non ti fermi, da quanto tempo, da quanto non ascolti tuo silenzio, da quanto non ti guardi, da quanto tempo, da quanto hai rinunciato al tuo silenzio, da quanto non le parli e non le dici. Whoa! non ti fermi, da quanto tempo? È tanto che ti chiamo, è tanto che ti cerco. Il 16 ottobre scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e in quella occasione EMPA ha diffuso un comunicato nel quale denuncia che il problema della vita sedentaria e della sovralimentazione non colpisce solo gli umani, ma addirittura i loro pets, cioè i loro animali domestici di casa. Il 30% degli animali domestici in Italia ha problemi di peso e negli Stati Uniti addirittura il 50%. Sono tanti i proprietari di cani che non si accorgono del problema, afferma EMPA, e che scambiano per costituzione evidenti problemi di sovrappeso o obesità. A loro e a tutti quelli che hanno un cane fuori forma, ripetiamo sempre che, nonostante alcune razze siano più predisposte a prendere peso, non esistono cani o gatti in sovrappeso o obesi per costituzione. I fattori di squilibrio possono essere molteplici: uno stile di vita sedentario, la noia, la mancanza di stimoli e di lavoro o gioco, la dieta squilibrata, come assenza di regole e orari, disponibilità eccessiva di cibo, alimentazione ricca di grassi al posto delle crocchette, troppi spuntini, ma anche condizioni fisiche e malattie metaboliche da valutare. Non dobbiamo vergognarci se abbiamo fatto qualche errore di valutazione o di alimentazione, conclude il dottor Levi dell'EMPA. L'importante è ripartire e non trascinare le condizioni di sovrappeso o obesità che possono anche diventare letali per i nostri amici a quattro zampe. Come ripete sempre il nostro etologo di riferimento Francesco De Giorgio, gli animali sono avventurivori, cioè hanno bisogno di stimoli, stimoli fisici e mentali, perché anche loro sanno e possono risolvere problemi, che poi è anche quello che ci evolve dal punto di vista del sistema nervoso, del cervello, ed è quello che facciamo noi quando non ci abbandoniamo a momenti di relax e sonno, non facciamo altro che risolvere problemi, problemi che si prospettano in maniera inattesa, avventure quindi, curiosità, stimoli, problemi da risolvere, socialità, incontri, comunicazione e qualche conflitto. Di tutto questo è fatta la nostra vita, così come la loro vita. E senza questi ingredienti la vita animale, che sia umana o non umana, non è pienamente tale. Chiudere la trasmissione con una bella notizia, e infatti siamo qui a parlarvi di cultura e di cinema, una cosa che ci piace fare quando ne vale la pena. Dal 20 di ottobre uscirà nelle sale il documentario La Pantera delle Nevi, che ci sentiamo di consigliarvi in quanto propone uno sguardo poetico e quasi mistico sugli animali più rari della Terra, proponendo anche interrogativi, dubbi e nuove consapevolezze. Il lungometraggio, prodotto dalla prestigiosa associazione National Geographic, ha vinto un premio come miglior documentario al Trento Film Festival, ai César Awards ed è candidato al Festival di Cannes. La regia del film è di Marie Amiguet e Vincent Mounier, con una colonna sonora firmata da Warren Ellis e Nick Cave. Nel film, il famoso fotografo naturalista Vincent Mounier e lo scrittore Sylvain Tesson esplorano l'altopiano tibetano e si interrogano su quale sia il posto dell'essere umano nel mondo. È quindi un film che mette in discussione le gerarchie antropocentriche. I protagonisti ci faranno immergere in luoghi mozzafiato, tra le cime più alte del Tibet, dove pochi riescono ad arrivare, a latitudini proibitive, tra i paesaggi più remoti e incontaminati del pianeta, e a pochi passi da molte specie animali a rischio di estinzione, tra cui la bellissima e rarissima pantera delle nevi, uno dei più rari e difficili felini da avvicinare. La stessa pantera delle nevi, sfuggente e maestosa, diventa qui il simbolo della natura incontaminata, metafora di un mondo in pericolo, di un ecosistema delicato e prezioso che stiamo mettendo pericolosamente a rischio e che senza interventi decisivi potremmo rischiare davvero di non vedere mai più. La voce narrante del film è lo scrittore Paolo Cognetti, recentemente vincitore del premio Strega. Va infine citata la collaborazione del Club Alpino Italiano nella distribuzione delle sale. Tutti i soci CAI potranno accedere alle proiezioni con un biglietto a prezzo speciale. Basterà esibire la tessera del CAI in cassa per avere diritto allo sconto. Un docufilm quindi adatto a tutta la famiglia che arriva dritto al cuore, con immagini meravigliose e le riflessioni di due uomini che sulle montagne inesplorate del Tibet entrano in contatto con il loro io più profondo. Puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 665 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.